adesso prima ragazzi, se volevi conoscere una donna dovevi andartene in piazza, rimorchiata, la fare, adesso cazzo vai su internet, la chiami, la metti, la chiami in coso, gli dà l'appuntamento e vengono subito, adesso non ho più gusto in mano. Oh, lascia perdere, oramai è diventato un... Inizialmente è diventato un troiaio, ci sono troppe cose che non vanno. È che ormai siamo condizionati anche da quello che fanno i figli, che per dire loro vanno sul foro eccetera eccetera, quindi anche tu devi cercare di essere al loro livello eccetera eccetera, e mi dicono vai su TikTok, vai qua, vai là, cazzo, sono tutta la vita dallo telefono, cazzo, non lo fa più, passa quindi. È meglio uscirsene, guarda, l'altra sera sono andato a pescare, è una cosa diversa. Sono andato a pescare, sono stato dalle 8 sino alle 11 e mezza, mezzanotte meno un quarto, e ho fatto la mia pescata e me ne sono potuto da casa. Ma infatti non si può stare sempre con questo cacchio di computer, di telefono, perché cazzo, stiamo ricoglionendo nel vero senso della parola. E se no il fatto di muoverci, telecomandi qua, telecomandi là, non ci muoviamo più, non ci alziamo più dalla sedia per girare il programma del televisore come si faceva prima, che giravi la rotella, te lo ricordi, tac tac tac, i così di scatti e ciao. E adesso non ti muovi più, la macchina c'è il telecomando, il cancello c'è il telecomando, cioè è tutto col telecomando, lo stereo, accendi lo stereo a casa c'è il telecomando, non ti devi avvisare più. Puoi starti neanche coricato tutto il giorno, tanto con i telecomandi fai tutto. E adesso addirittura hanno inventato anche telecomandi che alzano le serrande, che fanno tutto quanto, aprono le finestre, mettono in moto la lavatrice, tutto quanto. E stiamo diventando un bel comodi, però è una cosa sbagliata, perché non fai più movimento. Via, e senza contare che adesso col telefonino la spesa te la portano a casa, quindi una ragione in più per non uscire. Io guarda, quello l'ho fatto solo quando mi hanno operato e c'era il Covid-19 e non potevo uscire. E ho fatto gli ordini tramite internet, me l'hanno portata a casa ma non mi hanno soddisfatto perché gli ho chiesto per dire un chilo di pomodori ma ne ha regalato 4 fumati. Gli ho chiesto per dire di portarmi le arance e non le avevano. Insomma hanno fatto quello che hanno voluto, poi mi sono dovuto accontentare perché io non mi potevo muovere, mi sono accontentato lo stesso e via, capito? Pagata una barca di soldi perché l'ho presa in zona luna e sole, quindi ti puoi immaginare quanto abbia pagato la roba. Sì, me lo posso immaginare, perché oltretutto se lo fanno pagare caro il servizio, no? C'erano anche i volontari che la facevano, che praticamente c'era la protezione civile che ti faceva la spesa e te la portava a casa, però a me sinceramente disturbare gente che magari può fare altre cose non mi andava, di andare a farli venire a portarmi la spesa a casa non mi andava. Qualche cosa sono andati gli amici miei a comprarmela, qualche cosa me l'hanno portata loro. Sì, è un po' così intendi, però. Modulazione molto più bassa. Nasina è una bella aperta come modulazione forte, però arrivi lo stesso, non c'è problema. Aspetta che vedo queste RDFM. Certo. Giuseppe, vai fuzza. Adesso com'è? No, adesso è chiarissimo. Gamba. Voglio far girare anche questo un pochino. Questo è il 48, va benissimo Giuseppe, va benissimo. No, pensavo che se da quella là la modulazione era chiusa, molto nasina, normale. Però non sembrava in FM, era chiara, come modulazione era chiara, capito? Anche se era cupa, eccetera, eccetera, però le parole riuscivo a capirle bene. Gamba. No, io mi sono accorto che nelle FM quando hai parlato. Cosa sta succedendo? Vabbè, c'è per dire, io ho un apparecchio, l'ultimo che ho comprato, che praticamente tu quando lo accendi va su automatico. praticamente sul canale 9 in FM, poi tu lo devi mettere dove devi andare, però intanto come tu lo accetti va a 9 in FM, automatico. Ma 9 in FM sulle radiette? K. Ah, buono. Ho fatto bellino, se lo vedi ti piace. Le ho messo le luci blu. Si è diventato un bel bello con l'apparecchio. Veramente carino, mi piace molto come è uscito. Ma no, io mi sono un po' bloccato perché voglio un po' perché avevo delle cose arretrate da fare, voglio un po' perché poi quando capita in verticale ti spiego. E un po' la verità ho rallentato, anche per la pena, ho detto magari lo faccio. E vabbè, quando magari ti senti più, magari quando c'è più gente che ti senti più, diciamo, motivato a farlo, perché tante volte io avevo preso l'antenna per la macchina, non avevo preso la base magnetica con l'antenna, con la turbo, mini turbo, quella più piccola di quella che ho dato a te. Però me la sono venduta perché tanto c'era poca gente e poi dovevo fare l'impianto elettrico della batteria, passare dei fili, i cavi della batteria era un casotto perché tutto coperto, bisogna portarla per forza da un elettrauto che sappia dove mettere le mani. Io nelle altre macchine me l'ho fatto io l'impianto, però questa qua era difficile, gli altri ci avevano, per dire, un gommino dove passavano i fili, allargavi appena appena il buco e li facevi passare i fili, ma questa qui non si vede nulla, è tutto coperto da piccolo. E poi pensandoci, grati la cappotta, tutto quanto, la macchina è nuova, da piccolo. Ma infatti già va bene così, al limite un portatile. Sì, il portatile ce l'ho portato. Devo solo fargli lo spinotto per attaccarlo all'AC di sigari, perché praticamente c'ha l'attacco, però non ci aveva il cavo, capito? Quando l'ho comprato nuovo non ne aveva il cavo, erano tutti opzionali. Ah, ho capito. Ma a te serve quello che entra nell'AC di sigari? No, quello lì ce l'ho, però praticamente c'ha uno spinotto a jack che entra praticamente nel buco che c'ha sopra, c'ha uno per l'auricolare e uno per la corrente. Ah, ho capito. E lei Fusaro? Sì, li dovrebbe avere, se decido. Poi l'antenna, ce l'ho un'altra magnetica piccola che era di un portatile, così SOS, ho venduto il portatile e l'antenna me la sono tenuta, capito? L'antenna, quella per mettere sulla macchina, me la sono tenuta, era tutto in un kit quello lì. Me la sono tenuta perché è bellina, spara anche bella, è di quelle tipo antenne di radio transistor, se le presenti, si tira su, c'è la magnetica e ha il cavo che è fino, non è come l'RG50, tu rimane più fino. Io nella mia, per non graziarmi la capotta, gli avevo messo e poi gli avevo fatto incollare un pezzettino fino di velluto. Ah, K. No, ma quella che ho venduto io c'aveva proprio la gomma sotto, capito? Solo che tolta la gomma, poi c'è la calamita direttamente, invece ne hanno avuto una di base magnetica che prima c'aveva un lavirino che copriva e si affittava. Copriva la calamita e poi sopra questo lavirino c'era un pezzo grosso di... dove ti posso dire, tipo camera d'aria rimane, mi fanno graffiare la capotta. E quello lì durava un po' perché era grosso, invece questo qui di questa base magnetica che ho preso era fino, quasi trasparente. No, così è pericoloso. Io, ti ripeto, quando l'avevo messo nella multipla, il baracchino che avevo l'arma, e ce l'ho qua, di fronte a me la magnetica che avevo nella multipla, gli avevo fatto mettere il cosettino in velluto, bello, incollato, di lusso, che in qualsiasi maniera la toglievi, intanto è il velluto. E la massa la faceva lo stesso. Non mi ha dato mai nessun tipo di problema. Ho visto. Che antenna era? Aspetta che ce l'ho qua nelle... allungo il braccio un secondo. sì, ho capito. La, la PC, che cos'è la PC 46? Non c'è scritto, ma c'è scritto solo Midland in, in bianco sopra. E aspetta che mi prendo anche la misura, quanto è alta. Va bene, immagino, sarà quella da un metro, quella più o meno un metro. Allora già, dalle, avete poggiata sulla scrivania, dal basamento alla punta dell'antenna 75 centimetri. Sì, è piccola, magari andava anche bene. Ma vai da qui da casa e fa che con questa. Sì, sì, no, ma già va bene, adesso tipo la stai usando. Io adesso sto usando quella che avevo nella, nella multipla, la, la turbo. Però ce l'ho agganciata a un pezzettino di cose, di aggancio che ho vicino alla finestra. Quella, quella che ti ho dato io, la Turbo 2001, l'hai provata? Ah, ma quella la ce l'ho messa nel camper, è infatti una meraviglia. Che meraviglia, è anche tarata quella lì, è 1-1 in tutti i canali. Guarda quando l'ho comprata, non l'ho manco toccata, Giuseppe, l'ho piazzata, era 1-1, appena appena si muoveva, 1-1. Quando salgono le stazionali basta che tu li passi una lana d'acciaio con un po' di CRC sopra della lana d'acciaio, glielo passi, poi li passi lo straccetto e ti scompaiono, perché è solo l'atmosfera che si incrosta nell'antenna che ti fa salire un po' le stazionali. Sì, sì, no, prima di piazzarla l'ho tutta quanta il pezzo di sotto dove c'è la carica e l'altro pezzo, li ho fatti tutti quanti isolare con la lana d'acciaio passata bene per togliere quelle pochino di grasso e poi gli ho fatto dare il coso liquido a spray, il fanculo, adesso non mi viene il nome. C'è le c***o? No, il... un po' di soldi di quella bomboletta. Ah, è a spray, lo sai, buh. No, l'ho fatta verniciare, non è alluminio, no, è l'altro prodotto. La zingatura l'hai piazzata, è passata. Bravo, la l'ho fatta zingare a tutti. Ah, gappa gappa. Vabbè, comunque già era nuova. Il problema di quelle antenne, sai che cos'è? Che quando piove, dove c'è la carica, entrava acqua, io gli ho messo tutto il silicone attorno, non so se te ne sei accorto. L'ho chiusa col silicone, non mi ha più dato problemi. Sì, ma infatti lì ha messo il lucida lucida, anche dove c'era la striscia, tutta quanta pulita bene, e sembra nuova. Sì, poi vanno bene quelle antenne. Io poi l'ho presa la turbo, la mini turbo, va bene anche quella, la mini turbo va bene lo stesso, però le palazzi un po' meno, quella lì era una bomba, era come la Mantova. Tu pensa che da sotto casa io arrivavo lo stesso segnale, ad alcune persone arrivavo con lo stesso segnale che arrivavo da casa con la Mantova. Figurati. Io invece nelle camper che ho venduto, prima di prendere questo, mi sono venduto tutto, mi sono verificato l'antenna sul tetto, avevo fatto fare il basamento in maniera zingata, forato, avevo fatto fare un impianto bellino. Soltanto mi sono verificato l'antenna ed era la PMC Milo. Quella è alla pari della Turbo 2001, perché l'abbiamo provata. L'abbiamo provata una volta fianco a fianco, abbiamo chiesto il segnale, arrivavamo con lo stesso segnale. Ma sai cosa andava bene quella antenna in quel campo? Lo so, perché sono buone antenne, infatti la stavo cercando quella, è la più morbida della Turbo 2001, però la Turbo 2001 resiste più watt, capito? Ma sai dove l'avevo comprata quella? A Cagliari, quel negozio che c'è, scappatore. Ah, quello che c'è vicino al rifornitore? Sì, quello lì, c'è anche in internet, ma lo sai la roba che ha quello? Lo so, tutti i camionisti vanno lì a comprare, anche Gigino andava lì. Sì, ma quell'antenna lì la vendeva, l'ho sentito andare a Cagliari. Da quello che prima era da Grassi, quello che adesso non vende più materiale per CD, che rimaneva nel curvone dove c'era prima Portobello, ce l'è presente, rimaneva un po' prima in Portobello e poi il curvone lì, entravi prima della... c'è macro, eccetera, eccetera, poi ci rende su in fondo e c'è quel curvone, c'era quel negozio di elettronica e quello riprendeva a piedi 100-100, quanto fa 5, quanto fa 1, tutto c'ha per... Sì, nel negozio siamo andati a piedi a prendere la mia quanto fa 1. Ah, è vero. E adesso non vede più un capo, non ne vede più materiale per cibi. Avevo comprato anche le resistenze a fondo, la c'ha solo Sky adesso. Adesso l'unico che c'è Fusaro è la GBC, qualche cosa c'è. La GBC c'è qualche cosa, ma è caro di fu. La Fusaro mi trovo meglio perché mi fa gli sconti, tu va. E meno male, meno male. E prima che si trova che a fare un'antenna di barattino a uno, ma la chi? Fusaro? Ci sono antenne che costano e anche per il barattino, per dire quella che io ho dato a te costa 65 euro mi pare. Non so, ma mi pare che lui se ne è dando un arrivo, poi mi sono accorto che c'erano dei pezzi che mancavano, era stava cercando di comporre quei pezzi, infatti gli ho detto ma lasciala fare qua, ma infatti è un po' così, no, lasci perdere e poi la voleva rifilare a me, attimati. Infatti poi gli ho ordinato, ma internet è questa, la buvera. Sì, ma adesso ce li ha le antenne, perché ha chiesto un pubblicizzare, l'ho fatto ordinare un po'. Metto quelle che vanno di più, eccetera, eccetera, qua, le 50 mi sono quelle che vanno di più, ordina anche qualche boomerang. E infatti ha ordinato anche quelle, però adesso che sta ammassandosi la gente, non sta più entrando in frequenza, quindi prima c'era il buco con coronavirus, tutti stavano sfoverando baracchini, facendo, da voi di golf si sono tutti andati, poi questa frequenza sta sparendo, è inutile, se non stiamo uniti i continenti fanno i contest, fanno un po' di roba, parrocchite, caccia al tesoro, contest con tutto il mondo, con le cartoline proprio ti mandano una cartolina eccetera eccetera, ci sono proprio diverse associazioni tipo Alfa Tango, queste associazioni qua. Lo so che il continente, ma è dopo di formatura, punto di domanda. La mentalità è diversa, c'è la mentalità diversa, loro sono molto amichevoli, molto gli piace molto stare in compagnia, qua si ricavano tutti lui. Ma io infatti ultimamente va bene che poi quando sono andato in ferie saluti e baci a tutti, però anche nel periodo quando si è rientrati di nuovo al lavoro, accende il paracchino, uno se calzicheggia con l'altro, che dà che vuole importante, ma per essere, infatti ho detto, per entrare così senza di sostegnere mi guardo un po' di più. Infatti, no ma io guarda la sera quasi sempre mi sto prendendo il cane, ma ne vado a Plattamona, mi faccio un giro, mi prendo un po' l'aria fresca, scendo con qualche amico, qualche amica, cose del genere, ma ne sto adesso venerdì, poi mi fanno musica e cose, ma ne sto ad ascoltare un po' di musica, se va Giovanni mi porto un panino d'attore, intanto c'è Tore a Plattamona, non so se l'hai visto. Mi ha telefonato, dice che è alla rotonda. Io lo vedo sempre, ci vado sempre a trovare, l'altro giorno mi ha detto vieni frate che ci beviamo una birra. No ma Tore in gamba. Tore, io guarda personalmente ho assistito a una cosa che mi ha toccato il cuore veramente, è arrivato questo tipo quando c'aveva il negozio in via Pasqua. Arrivato questo tipo nel Toto, devo dire una cosa, sono rimasto senza soldi e non c'ho da mangiare, non è che mi puoi dare qualche cosa, poi quando c'ho i soldi ti li do. Scegli quello che vuoi, frate, non c'è problema, te la regala a Tore la roba, fregatene. Se ha detto, mi guarda, c'è di primo, c'è pasta al forno, ravioli, questo, quell'altro, l'ha dato tutto, primo, secondo, tutto va. Cioè, mi ha toccato il cuore vedere una scena del genere, perché gente così se ne trova poco. Lo so, ha dato tanto però ha ricevuto poco. Lo so, purtroppo. Vabbè, già sta guadagnando comunque. comunque a Plotavola sta guadagnando bene, perché c'è Prettiero, sai cosa ha fatto? Ci ha messo i tavolini davanti al campo, che poi fanno i tavolini e cose, e serve di tutto, fa calamari, fa patatine, calamari, c'è gente che mangia lì, capito? Serve la birra, fa panini, fa tutto, perché fa questo panino così buono, con la carne di cavallo e salsa barbecue. Prova, e poi mi dà la risposta. E adesso mi è tempo di riposarmi un po', poi te l'ho detto, giriamo un pochino qui in macchina, perché se si scende un paio d'ore al mare, poi verso l'ora di pranzo saliamo, noi per adesso abbiamo già fatto. Sarete anche stanchi, dai, vabbè, comunque, stanchi ma contenti di aver fatto quello che avete fatto, che è venuta anche tua figlia insieme a voi. Tutti, tutta la tribù. Allora già va bene, dai, già va bene, tutte famiglie. Comunque, sono una brava persona, tu non vi ne usci. Poca gente si trova così, anche il figlio, a me quando mi vede, sempre, quante mi tocca la mano, cazzo, sono persone veramente alla mano, e poi attore lo conosco tanto tempo, quindi ci conosciamo da un bel... con noi ci conosciamo, si può dire, da sempre. Se tuo genio mi ha chiamato ieri, no, preso per le scuole, ci hai detto di pronto, ciao fratellone, ma te che vieni a trovarmi in giù alla rotta, alla rotonda, anche da che fai tu in giù alla rotta, che ti tocchi, vieni, la voce di due pronti e la birra è fresca. Io ce lo ci scendiamo al limite, senza nessun problema. E ci ha fatto i tavolini, capito? A mo' di bar, cosa ti posso dire? Ci ha preso un bel pezzo del coso, ha messo i bidoni per buttare la spazzatura, tutto ordinato, capito? Tutto ben fatto, tutto a norma di legge, musica, a go go. Ma è lui dove rimane entrando alla rotonda, a destra o a sinistra? Allora, entrando è sulla destra entrando. Rimane proprio all'imboccatura, dai. Ah, ma è proprio tanto voi, una volta che si scende già si vede il camion suo. È l'unico che c'è, io, attore, lo conoscevo da quando aveva il negozio Manuela, non so se te lo ricordi, c'aveva il negozio... la paninoteca, pizzeria paninoteca, lo stesso, che via è quella lì, scendendo dal rifornitore di Rubi, scendendo giù, c'era lì la paninoteca, ma era un ragazzino che andava a fare i panini. Sì, ma lì era pizzeria Manuela, dove c'è il parrucchiere adesso, e quasi di fronte all'ingresso della Coppa. Esatto, sì, era lì proprio. Poi si era spostato, forse perché era più di passaggio, c'è stato tanti anni lì, e poi si è spostato lì, e mi andava alla grande, poi non lo so cosa sia successo, se per i macchinari che ha comprato, magari non ce l'ha fatta pagare, non so cosa sia successo. Mi è dispiaciuto molto quando l'ho visto chiuso, perché ero affezionato, ci andavo ogni tanto a trovare a farmi panini pure. E poi Tore aveva aperto a Piazza Malpagliati. Ah, vero? Ehi, a Piazza Malpagliati, cardinale, le avventure di quando ha aperto a Piazza Malpagliati. Molte volte mi chiamava, ah, ci sono nei casini, chi sei? Il ritorno non è venuto per le consegne. Allora andavamo io un altro, allora aveva il berlingo e ce lo davano, fatto di arrivata. Alle due correnti, alle due di notte mi correndo consegnando pizze a San Camillo. Prendi sai il coso è fatto, il correre delle pizze, il portapizze. Dove ce l'aveva Fiacca Mancagliati c'era coso prima, quel bombolaio che ricordi, che ci dica l'altro, ma chi c'è? E c'era anche la macelleria lì, e lui aveva aperto lì, hai capito? Quindi tu figurati con Tore quante ne abbiamo passato di cose, di cotte, di crude. Poi la pizzeria che aveva aperto lì via Pascoli, angolo con via Durra, e quella l'ho vista nascere con la pizzeria. E anche io lì conosco tutta la zona. Libera Massimo Bruglioni, stavo le biciclette prima e niente, poi ho trovato il caseggiato, l'avevano buttato giù, mi sa, avevano fatto il caseggiato nuovo, brutto. Abbiamo fatto di quelle cose quando c'era ancora l'impresa, l'impianto elettrico, cosa tutto non abbiamo fatto, pure questo. Avanti, perché le amicizie devono essere sane, sia nel bene quando uno va bene che quando uno va male, hai capito? E infatti il contore così, lui mi cerca sempre la verità, mi cerca sempre, sempre. Ah, ma si vede che è una brava persona, si vede che è sempre sudato, poveraccio, sempre lavorato come un nero, sempre tutto tanto infuso, sempre asciugandosi il sudore, vuol dire che è una persona che lavora, capito, che si muove, e poi vicino al fuoco, immaginati col caldo che c'è a Plattamona, stare lì vicino alla piastra calda, a casa a fare i panini, lui. Eppure lo fa. Vittorio era un bravo panettiere. Avanti il break. Santiago 5 Radio 4, dai. Sì, ha migliorato, sì. La mini turbo è, già ne sono io. ma praticamente lì si è chiuso come zona, si è molto chiuso. Giuseppe, tu lo senti a Lupomiccio? No, no, negativo già, negativo, proprio buio assoluto. Ascolta, ma la macchina che intenzione che l'apparecchio vuoi mettere? Allora c'ha l'attacco accendi sigari per la macchina. Tu che apparato c'hai portatile? Che sarebbe quello che c'ha la batteria che va messa a baionetta. Ho capito. Avanti Giuseppe, e Giuseppe non ti ascolta, ma sta uscendo con un antennino anche lui, capito? Io per il momento stacco che stanno chiamando la cucina e salutami un po' grigio da parte mia e niente, dai, se coincide ci facciamo una chiacchierata più tardi. Ehi, ehi, se non sono partito a Plattamona, oggi è venerdì e c'è musica. Dai, nel caso ci aggiorniamo. Ciao Gianni. Ciao Giuseppe, ci sentiamo, stammi bene. Buona carica. Avanti Giuseppe, Lupo Grigio. Ti saluta Giuseppe. Campa Giuseppe, se l'ascolto Lupo Grigio ricambia. Ma con l'altro arrivavi più basso, capito? Con questa qua arrivi meglio. Perlomeno a me arrivi bene. Santiago 4 e mezzo, 4, 4 e mezzo, sempre meglio dell'altro, dai. Ehi, ehi. E anche io ce l'ho portatile, mi sa che faccio anch'io così. Però devo comprare lo spinotto per, diciamo, per attaccarlo con la corrente della macchina, capito? Non c'ho, lo spinotto non me l'hanno dato quando l'ho comprato, al contrario di te, io c'ho, forse di quell'apparato lì, c'ho sia lo spinotto per attaccarlo all'antenna, sia che sono a V, sono quasi uniti, dai. E già va bene dalla macchina, già va bene, perché ti sposti puoi raggiungere il posto dove tu vuoi parlare, cioè, se proprio sei basso ti sposti in un punto dove senti meglio, con la macchina ti puoi organizzare meglio, capito? Cappagatta. Beh, vediamo, dai. Ma con quella lì ci puoi mettere anche un linearetto da 100 watt e ti aumenta il segnale. Ma non ce l'hai un veicolo, mi hai detto che te l'avevano dato un coso, un FM500S mi pare. Ma non lo so adesso se fanno più controlli, non si paga né più concessione, non c'è più, non lo so se controllano. A me una volta mi hanno fermato i carabinieri e hanno visto l'apparecchio, mi hanno chiesto se su che frequenza andava, gliel'ho detto. Ma a me mi piacerebbe questo carabiniere entrare il 27 quando sono a casa, che cosa bisogna fare? Gli ho spiegato tutto, siamo stati un po' parlando, dopo che mi hanno controllato, erano ben tranquilli e poi mi hanno fatto andare. Sì, ma non è confusione, la gazzetta ufficiale parla chiaro, se sulla gazzetta ufficiale è una cosa già approvata, eccetera, è una legge, frutto. E mi pare che maestro Claudio, sì, che ha un amico lì e gliene stava parlando. Ma è interpretazione questa legge, se mettono sulla gazzetta ufficiale una cosa, poi ne dicono un'altra, mi sembra che sia una questione più regionale che nazionale. A questo punto, se uno dice una cosa, uno dice un'altra. Sì, quello sì, a Cagliari che ci interessa, la Sassari hanno giusto qualcosa, non c'hanno manco i moduli per fare, non avevano manco i moduli per fare la concessione, per scaricare da internet. Ma vabbè, comunque, in ogni caso poi si sa, no, che è così. E dico, io ce ne ho uno omologato, se ti può interessare, non lo so, un Midland. E allora lasciaci portatile e ciccia. Lasciaci portatile, quando non vuoi modulare prendi tu lì tutte, buonanotte, ce lo metti nel cofano, intanto l'antenna è piccola, l'apparato è piccolo, ci metti tutto nel cofano e via. Ma già va bene in macchina, io l'ho provata, ricordati di metterla al centro cappotta, la metti al centro cappotta, pulisci bene prima la cappotta, prima di metterla, se no ti graffia la cappotta, va bene, la macchina già non è nuova nuova, quindi non è che te ne freghi più di tanto, però se vuoi che non graffi la cappotta le devi passare uno straccetto umido e poi la metti al centro cappotta, lì al centro cappotta è il massimo che può dare. Ma non c'è bisogno, se tu pulisci bene, se tu prendi uno straccio da casa già umido, glielo passi sopra e poi li metti l'antenna, va bene così perché c'ha quella gomma sotto, non so se l'hai vista come. È già troppo che ci siamo, no? C'era altra gente, ma sono andati tutti a fare carica, chi è uscito, chi ha fatto quello, chi ha fatto l'altro. E niente, io con chi c'è sto? Ui. Se poi non c'è nessuno, spengo, non c'è problema. Come ti stavo dicendo, che quando la piazzi l'antenna, fammelo sapere, così salgo anche io al quadrato, magari ci beviamo una cosa, capito? E anche da Brico c'è un bel, sì, c'è una bella visuale. No, Osino, la zona di Osino, vabbè, lo sai, in alto, a Osino parli con tutti. Poi anche l'istituto profilattico, quello che c'era da Osino, dove c'è la fermata del tram, proprio il capolinea, lì va bene lo stesso. Cioè le zone alte, là, il quadrato, la zona di San Francesco, dove, ma lì non te lo consiglio perché va tutte le coppiette, ti prego per guardone. Allora, sei sui 40 canali, sì, sì, da 40 canali sono omologati, oltre i 40 canali non sono omologati. Praticamente ci sono apparati omologati come il Midland, che ha bande laterali, più le bande normali, più le ferme, però tutto 40 canali, a 40 per banda. Quelli che escono 12 watt non sono certo omologati. Quelli omologati lo sai i watt che escono. Sì, ma manda laterale un po' di watt in più ti li dà sempre. Però quelli omologati non escono con 12 watt di sicuro. Sì, no, diciamo che se USB le bande laterali si parla meglio, nel senso che diciamo che sì, qualcosa la guadagni in effetti. Si parla meglio perché c'è meno gente, un po' tutto, capito? Riesce a parlare meglio. Poi te l'ho detto, se tu hai delle non ti accontenti magari perché l'antenna è troppo bassa, magari in mezzo ai palazzi riceve meno. Se non ti accontenti, la Turbo 2001, nello stesso attacco, tu svitti un'antenna e metti l'altra, ed è perfetta per quell'attacco lì, capito? Perché nella stessa casa va bene per tutti e due i tipi d'antenna. Devi calcolare però 2 metri. No, io con l'antenna da 2 metri andavo in giro, andavo in macchina, io ce l'avevo addirittura piazzata, avevo messo fatto il buco e andava benissimo con l'antenna, sembrava una mantova come usciva, andava benissimo, ti assicuro che è un'antenna molto performante. Praticamente da Fusano ce le hanno già perché le ha ordinate e ce le ha. Se non è che se le hanno comprate, sino l'altro giorno ce le avevo. Perché? Va. Ciao Gianni, buonasera anche al dopo grigio. Volevo sapere Gianni, ma dov'è da casa adesso? Chi io? No, dopo grigio. Sì, a casa sua. Ma non è sul tetto, vero? piano, c'ha un'antenna di macchina, sta usando una mini turbo. Ci vorrebbe una ricorda lunga, io lo sento, lo capisco anche perché c'è poco QRM, però ancora non ci siamo, sicuramente con un'antenna di quelle lì, di quelle che tipo camionista per intenderci, dovrebbe andare molto meglio, perché se riesce ad arrivare così poi magari con un'antenna un pochettino più lunghetta arriva. Mi senti dopo grigio, buonasera Gianfranco, ciao. Sì, ti sento però diciamo proprio al limite del QRM, quindi comunque anche da casa riesci a modulare. Ti stavo dicendo, dato che mi ascolti, se mettevi un'antenna un pochettino più lunga di lì, magari con un piedistallo o qualcosa, con quello che ti è più comodo, sicuramente qualche cosetta in più aumenti anche, e poi Gianni già lo sa che antenne mettere che hanno un pochettino di guadagno, ovvero già un qualcosa di quelle da 2 metri, magari 1,5 metri, dai. E io avevo la Turbo 2001 che ha lo stesso attacco di quella che c'ha lui, però quell'antenna lì la deve mettere in macchina, l'ha messa fusticciamente a casa adesso, la deve tenere in macchina, quindi in macchina lui se va in una zona libera con l'antenna va bene, arriva con 2 segnali in meno di quella grande da 2 metri, l'ho già provato io, quindi so già la resa che c'ha con l'antenna. Sì, ma quella che sta usando adesso, quindi dici di meglio non c'è? Sì, ma lui la vuole piccola per mettere sulla macchina, perché non è da restare in casa, quella lì l'ha messa così posticciamente, adesso per trovarla, ma lui la dovrebbe piantare in macchina con l'antenna lì, hai capito? Ah, sì, ho capito. Beh, ma in macchina, la carrozzeria è tutta un'altra cosa. L'importante è che abbia un terrazzino metallico lì a cui collegarla, ma ripeto, non dovrebbe mettere una ancora più lunghetta, ecco. Poi ci sono anche in acciaio, se non ricordo male, non so se le facciano ancora, che neanche si vedono. Essendo in acciaio sono abbastanza diciamo così tranquille condominialmente parlando. Va bene, riprendi Nicola. La mia posizione è fuori Sassari, a fianco a Monteoro, diciamo, la 127 bis. Un miglioramento l'hai fatto, almeno ci sentiamo. Certo, in FM è tutto un altro pianeta, in FM c'ha più resa, quindi dovresti avere un guadagno un pochettino migliore. Poi magari se sei col portatile, sei a batteria, tra una cosa e l'altra ci scappano, quanto saranno, 3 watt al massimo, quindi insomma basterebbe anche aggiungere qualche piccolo watt in più, non c'è niente. Avanti già. E proviamo l'MFM, dai, andiamo un po' grigio l'FM, vediamo un po' come va. Sì, l'ho conosciuto anche perché, vabbè, tra una cosa all'altra, stavamo parlando, poi gli avevo dato un consiglio per quanto riguarda un mic da acquistare per la radio che aveva. Ah, e poi non l'ha acquistato, così? E allora, ha fatto il furbello. Ai ai ai! Lupo Grigio è un po' restio a ascoltare i consigli. Forse anche perché si sente bloccato dalla moglie, no, lo so che non vuole. Ehi, vabbè, ma se non disturbi non ti secretare nessuno. Il 500S era omologato, adesso non è omologato, c'è, però è un apparecchio omologato perché l'ho avuto anche io, anche in concessione. Sì, mi sembra che era un 34 canale, se non mi ricordo male. Sì, è un buon 34 canale, io li appena sì, quelli con la batteria da 1,5 della Intec. Ma sai quanto usciva a fonte? Sì, sì, l'ho avuto, l'ho usato. Vabbè, io ero più sul Midland, ho sempre avuto il 48, però c'era gente che quando io ho acquistato quello, avevano acquistato il 48 e poi un altro Intec, non mi ricordo che cosa. Io Intec ne ho già avuto una sciarata, quello lì me l'hanno rubato dalla macchina, mi hanno spaccato il vetro e me l'hanno rubata sotto il cuore. E non sono stati molto intelligenti perché c'era lo spinotto per staccarlo e hanno tagliato il campo, l'hanno tagliato con le furbici. Vabbè, gente che non sicuramente ha visto, ha pensato che era una radio di quelle normali, non sapeva avere un baracchino, forse boh. Ah, è una cosa strana perché io avevo appena smesso di modulare, ho detto beh, io sto chiudendo, me ne vado a casa. Sicuramente hanno aspettato che andassi a casa e la gente che stava ascoltando, Tino, lascia per. Boh, non lo so, vabbè, io di questi problemi non l'ho mai avuto, anche perché la mia dormiva con le radio attaccate, però conoscevo la zona, conoscevo la macchina, conoscevo di chi era, quindi. E anche la mia mattina. Perché l'hanno fatto quando non c'era gente in casa, se no non avevi arrivato. Vabbè, ma è vero, è vero. Va bene, dai, vediamo se c'è qualcun altro, avanti. Ciao Gianni, ciao Tino, buonasera a tutti e due, avanti. Ciao Giulio, c'è anche Gianfranco e Lupo Grigio. Sì, sì, ti sento, come hai fatto? Ciao Nico. Ok, ti sento, anche se è basso, però ti sento. Santiago 4, radio, diciamo 3, dai. È in assenza di QRM riesco a capire quello che dici. Oh, finalmente riesco a sentirti, ragazzi. Finalmente. Ciao Gianfranco, vai. L'ho salvato io. Sì, ciao Giulio, buonasera, ciao Tino. Io ne approfitto del micro per scappare, mi stanno chiamando per la cena. Buonasera a tutti, ciao Nicola, ciao Gianni, ciao Giulio e ciao Tino. Buonasera a tutti e alle prossime, riprendi Gianni. Ciao Gianfra, ci sentiamo, dai, buona carica quando la fai, avanti giù. Ok, ciao Gianfra. Sono arrivato tardi, vabbè, avremo modo di scambiare le chiacchiere magari in un altro momento. Ciao. Grazie per essere entrato anche stasera, così incrementiamo l'attività in questa frequenza. Ok, vai vicino. Va bene, dai, però buonasera comunque, dai, ciao Gianfra. Ci si riascolta le prossime. Ma io ero qua in compagnia, c'era gente in verticale, quindi ho dovuto mollare la radio, l'attività, perché ero con Gianni poc'anzi sulla 27, quindi ho dovuto mollare da solo, da tutti gli obblighi di lui. Avanti Gianni. Sì, vabbè, ma si capisce la situazione, non c'è problema. Andava, Lupo Grigio, soddisfatto, sì. Vedi? Che antenna? Ho venduto la mini turbo io, con la base magnetica, se l'ha attaccata alla caldaia. No, diciamo che ha un po' incrementato il segnale per quanto riguarda la mia stazione, non tantissimo, perché prima arrivava quasi a livello QRM, adesso è un pochino Santiago 5, ma riesco a ascoltarla ancora in mezzo al fruscio, ma riesco a capirlo. E aspetta adesso che la metto in macchina, la soddisfazione la metto ancora. Dai, sono contento che ho fatto un'opera buona, che gli ho venduto con l'antenna. L'ha attaccata alla caldaia nel terrazzino, nel poggiolo? Sì, via. Il sentiero 3. Ok, dico, allora va bene, se quando non c'è QRM ti sento sicuramente, perché il sentiero 4 adesso è la radio è discreta, basta ma è abbastanza chiara. Sì, magari lo potresti anche cercare di farla sporgere un po' dalla finestra, utilizzando, che so io, una sbarra di ferro con una piastra attaccata, ci metti due tassi dal muro dalla sbarra di ferro e la piastra ci fa un foro e ce la metti di l'antenna e vedrai che c'è ancora molto ma molto meglio. Va bene, mi sembra che è entrato anche Claudio, avanti Claudio. No, forse mi sono sbagliato, vabbè, non fa niente. Avanti Tino. No, dicevo che mi arriva Santiago 3, non più 5. Me l'ho sbagliato poc'anzi dicendolo. E 3 anche a me arriva, dai 3 ai 4, dipende dai momenti. Ma comunque dovete considerare che lui ha l'antenna attaccata di lato, l'ha dovuta piegare perché dritta non l'ha potuta mettere perché l'ha messa di lato, quindi ha dovuto girare l'antenna, quindi è una posizione anche un po' strana. Quando la mette sulla macchina voglio vedere, io sulla macchina a me mi andava benissimo, arrivavo 9, 9, 10, andava bene come segnale. Mettila sulla ringhiera, prova sulla ringhiera anche adesso, provala sulla ringhiera, vedi se va bene. Va bene, avanti tiro. Magari funziona anche di più, perché si sposta magari dal muro. Credo, se ho capito bene, era sulla caldaia. E allora, sulla caldaia di lato ha dovuto girare l'antenna, non ha dovuto mettere in verticale come dovrebbe essere messa, ha dovuto girare, ma comunque io ti do l'ottarata sulla macchina mia, andava bene, poi ho cambiato idea perché c'era poca gente, cose, dovevo stare, andare dall'elettrauto a fare mettere il cavo per l'elettricità, perché nell'altra macchina era molto più facile, c'era il gommino, lo allargavo e mettevi i fili, questa qua è tutto gatto pubblico, non mi fido, cazzo, poi c'è troppa roba elettronica, non mi fido, là. Lasciamo perdere. E poi una cosa, il Midland, quello che era modificato, quello lì mi l'ha portato e manco si muoveva l'ago, niente, non funzionava, non si sentiva correre, nulla. Ho messo quello omologato e ci parlo tranquillamente. Sì, vabbè. Allora, queste macchine nuove, di nuova generazione, c'è un problema, che se metti un 747 magari ti fotte la centralina, quindi bisogna un pochino, tra virgolette, stare attenti, bisogna ricordarsi di queste cose. Va bene, e Giulio, riprendi. Ok, sì, vediamo un po' che ha costato l'antenna, l'ha messa sul davanzale, vediamo cosa, ma sul davanzale è di muratura oppure c'è qualche passamano in ferro anche, o Nico? Mi ha aumentato. Qui è diminuito. Anche per me. Sì, ti sento, ma sei abbassato il segnale. Sei più basso adesso. Evidentemente la caldaia ti faceva un po' da riflessione, da piano riflettente, per cui andava meglio. No, ma se tu fai come ti sto dicendo, tu prendi una piattina, non so, un metro, tanto per dire, di piattina, un metro e mezzo, ci fai due buchi e ci metti due tasselli al muro, però attaccata a questa piattina, prendi un piatto di ferro semplice, ce lo fai saldare sopra, ce lo fai saldare, ma un pezzo da 30 cm per 30, se puoi è un po' più grande, ancora meglio. E al centro ci fai un buco, ci fai, e piatti l'antenna lì, e vedrai che c'è la grande. Io 4 e mezzo. Adesso non lo sento più. Giulio non ti sente, ascolta, fa una cosa, vabbè, suppongo che la ringhiera sia abbastanza lunga, provala in diverse posizioni, perché io nella ringhiera di casa se la mettevo al centro prendevo meno di quando la mettevo di lato, quindi prova diverse posizioni, aumentava di brutto, spostato. Guarda, da parte mia io non lo ascolto, proprio è sceso il segnale anche del radio. Sì, anche da me, io non lo sento più. Cazzo, adesso è Santiago 7. Si vede che mi dà la testa e non perde qua, da questa parte. Qua sei Santiago 7. Non lo so, comunque ha aumentato di brutto il segnale. Aspetta, già, lascia un attimino il bianco, Prova Timino, ma la partita ti ascolto, però per me sei sceso, primi di Santiago 3, Radio 4, adesso sì, Santiago 1 e mezzo, Radio 3. Adesso ti sento di nuovo, adesso io ti sento di nuovo, come prima, Santiago 4 e la Radio 3. Però quando ti sei spostato poi è finito che non ti ho più sentito per niente, non c'era più nemmeno segnale. Sì, anche la partita si è aumentato, Vedi come sono le posizioni di Giulio, a me mi arrivava a 7 dell'altra maniera, adesso mi arriva a 3, 4, prima mi arrivava a 7, ma di brutto è salito anche di radio, sicuramente era più favorevole per me e per lui no, ma meraviglio per Tino perché più o meno io e Tino siamo nella stessa linea, ma forse perché lui è giù. No, vabbè già, ha trovato un varco dove a te è arrivato meglio, qua invece magari non riesce a superare quella piccola collina perché io sono un pochino più in basso di te e quindi non riuscivo ad arrivare. Adesso ha il suo segnale, un segnale di 3, radio 5 però, Vai, vai, ma mi sa che è lo stesso. Qua, buonasera a tutti, arriva Santiago 5. E qui arriva 4. Sì, ma ha migliorato perché prima non lo sentivo per niente, adesso già lo sento. Però è sempre poco, perché basta un po' di QRM e non lo sento più, Perché se mi arriva Santiago 4, QRM io oggi non ne ho, è quasi 1, dai. Quasi 1, QRM 1. Per cui se dovessi aumentare il QRM, guai. No, non lo sentirei più. Io penso che lui potrebbe migliorare mettendoci uno stilo da un quarto d'onda, come ha fatto Luca quella settimana scorsa, quando 15 giorni fa, 20 giorni fa, aveva messo uno stilo di un quarto d'onda, l'avevo messo, e arrivava fortissimo da me, e si faceva sentire un po' dappertutto, anche in paese lo sentivano da Muros, per cui dovrebbe fare così. Bene, dai, riprendo il mic io che così mi devo spostare, mi chiamano fuori che devo fare cosa. Niente, dai, saluto a tutti e se coincide più tardi. Ciao a tutti, dai, riprendi giù in Gianni. Ehi, allora, ciao Tino, ci sentiamo, dai, buona serata. Ciao Claudio. Avanti Giulio, poi fai girare per Claudio, per il saluto. Sì, saluto Tino che sta andando via e anch'io vado via, dai, mi ero già chiamato per la cena, per cui ci sentiamo. Ciao Claudio, ciao lui, ciao Gianni e ciao Nicola. Nicola, lo vedi, migliora ancora che così almeno non ci saranno problemi quando ci sarà QRM forte. Ti prendi qua, ti ascolto finale e poi chiudo, vai. Via, ciao a tutti, grazie del cambio. Anch'io rimango in QRX però già perché mi sto sistemando i cani e ho sentito giusto a Nicola che ha fatto questa prova con l'antenna per dirle che arriva segnale 5 qua, prima arrivava segnale 0. Saluto anche a Tino che è andato via, se mai ci sentiamo dopo già, c'è un caldo da morire, mi sto sistemando i cani e poi rientro in radio perché non si può stare manco fuori. Aspetta un secondo, che ti provo a fare un'altra posizione, perché a me c'è una posizione che mi arriva a 7, provalo sulla ringhiera dove mi arrivavi 7, dopo grigio, a vedere come ti ascolta Claudio, per vedere se stava migliorando dalla parte sua, perché a loro gli arrivava più basso, a me mi arrivava più alto, per sapere se a te ti arriva più alto o più basso. Prova, o Nicola, a metterla sulla ringhiera dove ti senti tipo Santiago 7. Adesso ti fa vedere, qua se lui mette, se lui li mette una turbo 2001 ha risolto tutto, cattivo di due che non mi puoi dare retta, prova, no non è questa la posizione, spostala ancora, arriva di 7. Qua è sempre 5 già. No, aspetta che c'è un punto dove sulla ringhiera che arriva a 7, però a Tino e a Giulio gli arrivava più basso. Vediamo. Prova io. Ma non è quella la posizione, sulla ringhiera devi mettere, sulla ringhiera dove mi arrivavi Santiago 7. No, è sceso. No, è sceso adesso. Poco fa mi arrivavo a 7, di colpo è salito il segnale a 7. E sicuramente la seconda posizione che l'hai messa sulla ringhiera era. Prova, faccia quella come ti ha alzato, però era ancora di più, a 5 è salito adesso. E a te quanto ti arrivava? A me mi arrivava a 5, adesso è 6. sì, abbondante. È un buon segnale però per quell'antenna rispetto a dove sono io. Ah, sai come l'ha messa? L'ha messa nella casa della caldaia piegata, girata, capito? E si è tutto quanto il muro a fianco. L'ho fatta mettere sulla ringhiera, ha migliorato di brutto, siete salito. Però se lui li mette, basta, guarda, una turbo 2001 lì e fa la tutto sassa, di goledone, di nitro fedito. Io quando avevo la mantova turbo anche da mezzagliano lì sotto casa, cazzo, arrivavo col segnale della mantova, immagina. Ah, ma va bene, cioè il fatto che lui qua arrivi, prima non arrivava niente, che antenna sta usando? La LEM, la mini LEM. Va bene. Adesso sei settimi. Prova Nicola, qua sì, Santiago sì, abbondante, va bene, quella è la posizione, ti conviene lasciarla così. Non ti sente Giulio però è agli punti, non è molto favorevole per te sicuramente. No, è la tua posizione, non sente Santiago 4. Così io ti sento magnificamente bene. No, qua non arrivavi. Da Monteoro non arrivavi, adesso arrivi. Quella è una signora antenna, ma quella è quella che gli hai detto tu già. Ehi, allora ho dato a tanti in macchina ogni buon gusto. È un bel contento, gli è piaciuta molto. Quella è una signora antenna, tu immagina, quando lo usava Gianni in macchina, dal lavoro, da dentro praticamente il piazzale dove lavorava, a casa mia arrivava Santiago 9, quindi. Ma questa è un'altra cosa, l'ho comprata nuova a me questa qua, sia la base magnetica che l'antenna, l'ho comprata da poco, perché avevo intenzione di metterla in macchina, poi ho visto che non c'era gente e niente, cosa di buono a fare in macchina. Ma te l'ho detto, macchina oramai è passato tutto, non serve a niente. No, arrivi bene Nicola, dai, arrivi bene. Ti lascio con Gianni perché io me devo sistemare i cani. Se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Dai, tanto non so se dopo venivano a mani, che c'è musica giù, vediamo un pochino. Adesso telefono qualcuno e scendo a posto. Carlo c'è a stare a casa, non è buccia di giocare. Avanti Nico. Aspetta, quando vai a mangiare chiudiamo, non c'è problema, io già posso stare, si la prova tu vai a mangiare. Poi faccio delle telefonate a degli amici e delle amiche e vedere se scendono. E andiamo lì, a Platamona c'è musica, c'è qualche cosa. Con le mascherine, naturalmente. Anche si balla, però non lo so se adesso lo facciano, perché le discoteche sono chiuse, ma lì hanno aperto, può darsi che ci sono i pareti e cose, però hanno aperto. A Canica, no, io andavo a Porto Torre già al Parsifal, andavo lì prima, ma ti parlo di 3 anni fa. Ho capito, come fanno a Porto Torre se Piazza Garibaldi lo fanno anche lì, fanno i balli lisci eccetera, adesso non lo so quest'anno com'è, perché con la storia del Covid-19 è un casino. Comunque anche a Porto Torre se lo facevano, andavo io. No, io sto parlando di Piazza Garibaldi, dove c'è la pizzeria Garibaldi, non so se lo sai com'è. Diciamo che a Porto Torres d'estate prima era una festa, adesso non so come sia perché sono un po' che non ci scendo, ma prima d'estate era una festa, io scendevo sempre lì perché c'era complessi, c'era karaoke, c'era di tutti e di più, i bar facevano il karaoke, tutti i bar, tu scendevi in piazza e c'erano 3 o 4 bar che facevano il karaoke, poi c'era festa in piazza, poi giravi, andavi al bar dei pescatori e c'era karaoke anche lì. Era pieno di musica, di cose, festa, eccetera, eccetera. Adesso non lo so come sia, con la storia del Covid hanno cambiato molte cose. No, lì si balla ancora, perché te lo dico di sicuro perché ci va un'amica mia, me l'ha detto che è andata da poco. Ah, è uno spiazzo, tutto uno spiazzo, non c'è pista da fare, è uno spiazzo grande all'interno, è abbastanza grande, non è piccola. E lì ci vanno le scuole di ballo, praticamente, si incontrano le scuole di ballo e vanno tutti lì a ballare, quelli di Sassari, quelli di Porto Torres, e questa amica mia è una scuola di ballo e va spesso, va tutti i sabati, venerdì, quando balla. Ma questa amica mia ha la passione, proprio ce l'ha nel sangue, gli piace ballare. E mi ha detto che sin da quando era ragazza le piaceva ballare, però non era mai andata alla scuola da ballo. Poi ha trovato questa sua amica che andava e ha detto, dai, perché non vieni? Lei è andata subito a imparare, infatti è diventata subito brava. Non ha avuto problemi a imparare i passi e cose, proprio se ce l'ha nel sangue. Sì, loro stanno andando ancora, se con la storia del Covid-19, però forse le fanno chiudere queste scuole di ballo, perché anche le discoteche le hanno chiuse. E infatti questa vicaria ha detto, cavolo, adesso non ci fanno andare manco a ballare a Porto Torres, il giorno che ci trovavamo tutti qua, tutte le scuole di ballo che vanno lì a ballare, perché ne scendono da Sassari, dai paesi, un po' tutte le parti, tutti quelli che fanno scuola di ballo vanno lì. Ma io lì ce l'ho messo a ballare, dico la verità. Io ballavo marcetta, rock and roll, quei balli che si ballavano prima, ma lo shake, il twist, queste cose qua sì, però i balli di gruppo mi piacciono, ma lì ce l'ho un tanto, non mi attira molto. I balli di gruppo già mi piacciono perché portano allegria, mi piacciono per questo. Tu sei un po' grosso, quindi devi stare attento a queste cose qua. Oggi a Dinam ne ha trovato uno che ci aveva il diabete, ha avuto due infarti, un anno e mezzo, uno dall'altro. Dopo un anno e mezzo ha avuto il secondo. Lo so, lo posso immaginare. Non è una cosa piacevole di certo. E questo ha detto, cavolo, ma io lo so di gente che ce ne ha uno, poi dopo 10 anni mi può venire l'altro, ma cavolo, dopo un anno e mezzo mi è venuto, capito? E sono stato fortunato che li ho resistiti tutti e due. Quello lì dipende sempre dalla tempestività di chi c'è. Se c'è uno che sa manovrare, sa fare le manovre, va bene. Se tu vedi persone che non sono adeguate a fare certe manovre, non ti salvi, no. Io, per dire, ne ho salvato la mia collega, è entrata in arresto cardiaco, gli ho fatto il massaggio cardiaco io in negozio, e l'ho fatta, poi è venuto il 118, mi hanno dato il cambio, ma l'ho rianimata io. Mi fa piacere, guarda, mi fa piacere di aver fatto una cosa buona, mi fa sempre piacere accontentare le persone. Come dire, quando ti decidi a venire, ma vuoi mangiare un giorno? Vai a mangiare, vai tranquillo, ciao, ci sentiamo, dai. Poi già ci aggiorniamo, ti do delle dritte e vedrai che ti faccio uscire forte anche da casa tua. Se tu su quella base magnifica fai il piatto lo stile della 2001, sei a posto. E già non c'è problema, dai. Anda a vedere, sempre che ci sia gente per provare. Ciao, ma figurati, ciao, ciao. Ciao,